Il sole era alto e il caldo diventava sempre più rovente. Anche la sabbia scottava e una polvere fine come cenere bruciava i nostri visi e seccava il nostro palato. Verso le 8 siamo giunti alle montagne Quebradas, conosciute per le difficoltà che presentano i viaggiatori. Quando la mula si arrampicava su per i picchi, mi coricavo sul suo dorso affidandomi alla provvidenza, ma quando scendeva non potevo fare lo stesso. La bestia avanzava con passo abbastanza sicuro, ma i pericoli della strada mi costringevano ad avere una grande attenzione. Dovevamo far superare agli animali dei crepacci che interrompevano il cammino, farli arrampicare sulle rocce e guidarli lungo sentieri stretti. La sabbia franava sotto gli zoccoli e ci faceva correre il rischio di cadere nel burrone che costeggiava il viottolo. Don Baltasar ci precedeva per indicarci la via e suo cugino, l'uomo più attento e gentile che abbia mai conosciuto, camminava accanto a me per potermi aiutare in caso di bisogno. Il dottore, uomo prudente per eccellenza, stava sempre indietro per non essere coinvolto nella caduta nel caso uno di noi fosse scivolato. A ogni passo falso della mia mula lo sentivo gridare e maledire la strada, il sole, la polvere, deplorare il suo avverso destino e raccomandarsi a Dio. Ho superato abbastanza bene la prima e la seconda montagna, ma giunta in cima alla terza, mi sono sentita molto debole e ho cominciato a stare male. I movimenti della mula mi avevano causato un vivo dolore nel fianco e mi era impossibile continuare a tenere le briglie. L'aria era pura e fresca e ci siamo fermati. Provavo le stesse sofferenze della vigilia. Un'oppressione spasmodica mi chiudeva il petto e mi faceva gonfiare le vene del collo e della fronte. Gli occhi lacrimavano, la testa non si reggeva più e le membra erano distrutte. La sete, una sete ardente, era la sola sensazione che avevo. Don Baltasar riteneva che nello stato in cui ero non potessi cavalcare senza espormi al pericolo di cadere nel precipizio, perciò mi ha proposto di fare la discesa a piedi. Lui e suo cugino mi hanno preso sotto braccio e quasi portandomi di peso mi hanno aiutata a scendere, mentre il dottor Castellac, dietro, guidava gli animali reggendo le redini. Questo modo di procedere funzionava bene, perciò lo abbiamo ripetuto sulle altre 7 o 8 cime che abbiamo dovuto scalare. La mia sensibilità, aumentata dall'irritabilità del sistema nervoso, era colpita dallo spettacolo delle vittime e della morte nel deserto ancora più di quanto lo fosse stata il giorno prima, alla vista delle carcasse degli animali morti in quelle solitudini aride. Avevo davanti agli occhi due animali sfortunati, un mulo e un asino, che stavano soccombendo alla fame e alla sete e si dibattevano nell'agonia di una morte terribile. I loro flebili gemiti mi hanno strappato i singhiozzi, come se stessi assistendo alla morte di due miei simili. Persino il dottore, malgrado il suo freddo egoismo, era scosso. In questi luoghi spaventosi gli stessi pericoli minacciano tutte le creature. Ah, non potevo decidermi a partire. Le emozioni mi tenevano incatenata a quello spettacolo straziante. Ma sull'ultima cima ho dovuto sostenere un'altra prova impostami dalla divinità del deserto. La morte. Sul bordo della strada, collocata in modo che non si potesse evitare, c'era una tomba. Don Baltasar voleva farmi passare oltre in fretta, ma la curiosità mi spingeva a leggere l'iscrizione. Era un giovane di 28 anni che era andato a fare i bagni di mare a Islay e ne era ripartito ammalato ed era morto in quel luogo mentre tornava da Arequipa. Non era riuscito a sopportare la fatica del viaggio e il dolore della madre si era espresso in quella tomba che completava l'orrore del deserto. Essa sorgeva nel punto esatto dove il giovane era morto e sulla lapide era scritta la sua drammatica fine. Io immaginavo in modo vivo la sua sofferenza nel sentirsi venir meno in questo luogo, lontano dai suoi cari. La mia immaginazione ingigantiva il suo dolore ed ero così profondamente impressionata che per un istante ho avuto timore di morire anch'io in quel posto. È stato un momento orribile. Pensavo a mia figlia, la supplicavo di perdonarmi per essere venuta a cercare la morte qui, a 4.000 leghe dal mio paese, e pregavo Dio di prenderla sotto la sua protezione. Rassegnata a lasciare questa vita incatenata alla tomba da cui non potevo più muovermi, ho perdonato tutti quelli che mi avevano fatto del male. Ma Don Baltasare è venuto ancora una volta in mio aiuto, mi ha issata sulla mula, mi ha legata alla sella con il poncio, poi, sostenendomi con il suo braccio vigoroso, ha incitato gli animali ad andare più veloci. A fatica sono riuscita ad arrivare in cima all'ultima vetta, dove i miei compagni mi hanno distesa a terra dicendomi in tono allegro: Signorina, aprite gli occhi, guardate com'è bella Arequipa. Ecco il fiume di Congata e i grandi alberi che lo costeggiano, diteci, in Francia avete una campagna così bella? Congata non è un villaggio, è un gruppo di 3 o 4 case e una bella fattoria che funge anche da posta, albergo e luogo di ritrovo dei viaggiatori che attraversano il deserto. Il proprietario si chiama Don Juan Najarra. Entrando nel cortile, Don Baltasar gli ha detto chi ero e quanto avessi bisogno di aiuto. Il nome dello zio è stato una potente raccomandazione e signor Najarra, sua moglie e i numerosi servitori si sono affaccendati attorno a me. In meno di 10 minuti mi hanno tolto le scarpe, mi hanno lavato il viso, le braccia e i piedi con acqua tiepida e latte, poi mi hanno portata nella piccola cappella della fattoria dove avevano preparato un letto sul pavimento e mi hanno offerto un buon brodo. La signora Najarra, aiutata da una nera, mi ha fatto indossare una camicia da notte di batista fresca e mi ha aiutata a sdraiarmi, posando una tazza di latte vicino al guanciale. Secondo le informazioni avute, lo zio non sarebbe tornato ad Arequipa prima di 2 mesi, trovandomi nella necessità di chiedere ospitalità ad altri parenti. Il giorno prima di partire da Islay avevo scritto al vescovo e a suo fratello, il signor de Goyeneche, che erano miei cugini. Il dottore era a conoscenza di questo e lo ha riferito a Don Baltasar. Appena venutone a conoscenza, egli è partito al galoppo per avvertire i parenti del mio arrivo a Congata e del precario stato di salute in cui mi trovavo. Mi sono addormentata immediatamente e mi sono svegliata verso le 5 del pomeriggio. Ho guardato stupita gli oggetti che mi circondavano. Sulle prime ho creduto che fosse la continuazione di un sogno. Non potevo credere che ciò che vedevo fosse vero. Mi trovavo in una piccola cappella decorata nello stile comune in Perù e con l'altare sovraccarico di statue di gesso, fra le quali c'erano una vergine vestita in modo bizzarro e un grande Cristo coperto di gocce di finto sangue. C'erano anche dei candelabri d'argento, dei vasi di fiori naturali e artificiali e una grande quantità di altri oggetti. Il pavimento era coperto da un tappeto abbastanza bello, una piccola finestra lasciava penetrare una mezza luce pallida e malinconica. Il mio letto era situato nell'angolo vicino all'altare, di fronte c'era la porta d'ingresso. Quando ho aperto gli occhi, la porta era socchiusa e un animale stava mettendo dentro la testa per entrare. Era un enorme gatto d'angora dagli occhi di fuoco, la più bella bestia che avessi mai visto. Ho socchiuso gli occhi per non spaventarlo, curiosa di vedere cosa avrebbe fatto. È entrato a passi felpati, con aria misteriosa e guardinga, girando gli occhi fiammeggianti e agitando la coda, ondeggiante come un serpente che si crogiola al sole. Indebolita da 2 giorni di sofferenze e in preda alla febbre, forse ero nello stato d'animo in cui si trovano a volte gli esseri inclini al sonnambulismo. Vero è che la vista di quel gatto straordinario mi ha ispirato una paura che non saprei spiegare. Ho voluto tuttavia dominarla, perché il mio carattere coraggioso si indignava nel provarla. Tirando fuori il braccio da sotto le coperte, ho preso la tazza del latte e l'ho portata all'animale, chiamandolo con voce dolce. Ma lui ha drizzato il pelo e con un balzo è saltato sull'altare come se da lassù volesse gettarsi su di me. Stavo per chiedere aiuto quando sulla porta è apparso un piccolo essere che mi ha fatto l'effetto di un angelo. Oh, non abbiate paura, mi ha detto vedendo il mio spavento. Questo gatto non è cattivo, è solo molto selvatico e quando è impaurito diventa strano. Dicendo queste parole, la graziosa piccola creatura si è avvicinata all'altare, ha parlato al gatto che si è lasciato accarezzare, poi lo ha trascinato verso l'ingresso e lo ha spinto fuori, richiudendo la porta. Non sapevo cosa pensare di questa apparizione. L'enorme gatto con gli occhi rossi mi era sembrato l'incarnazione di Lucifero e la piccola figura davanti a me sembrava un angelo sceso dal cielo. Avvicinati, gli ho detto, chi sei? Come ti chiami? La piccola creatura si è inginocchiata sul bordo del letto, mi ha offerto la piccola bocca da baciare e ha fatto scorrere la sua graziosa testa di serafino sul mio braccio perché la accarezzassi. Il mio nome è Mariano e sono il figlio del signor Naharra. Da molto tempo stavo fuori della porta ad ascoltare per sapere quando vi sareste svegliata. Mi sono voltato un attimo e il grosso gatto nero si è infilato dentro. Avevo paura che bevesse il vostro latte, per questo sono entrato. Non siete arrabbiata, vero? Mariano era un amore di bambino. A 5 anni aveva un tipo di bellezza rara in un bambino così piccolo, la bellezza d'espressione. Nei suoi grandi occhi neri si leggeva che il divino lo aveva dotato di un'anima sensibile e intelligente. Aveva i capelli ricci di un bel nero lucente, il corpo sottile, le braccia e le gambe magre, le mani graziose e i piedi piccoli. Il suono della sua voce commuoveva l'animo e il suo modo di parlare, ancora infantile, dava una grazia particolare a quello che diceva. L'ho pregato di andare a cercare sua madre, che è giunta poco dopo insieme al dottore. Ella aveva in mano una lettera del vescovo di Arequipa, il mio illustre parente, diceva che il fratello mi sarebbe venuto incontro per darmi tutto l'aiuto necessario. La sera, la signora Naharra mi ha offerto un pasto raffinato, con porcellane meravigliose, cristalli preziosi, biancheria damascata, argenteria lavorata e, cosa rara, coltelleria inglese. Il servizio è stato accurato quanto avrebbe potuto esserlo in un grande hotel di una capitale europea. Mi sono alzata verso le 6. Avevo il corpo contuso, i piedi gonfi e tuttavia ho voluto fare una passeggiata nel boschetto del signor Naharra. Dopo 2 giorni passati nel deserto, provavo un grande piacere a ritrovarmi in un campo coltivato e ad ascoltare il mormorio di un ruscello, a vedere gli alberi alti e maestosi. L'aspetto della valle mi affascinava. Mentre parlavo di agricoltura con il signor Naharra, un nero è venuto ad annunciarci la visita del signor Don Juan de Goyeneche. Era la prima persona della mia famiglia a cui stringevo la mano. Mi è piaciuto abbastanza. Il suo tono era di estrema gentilezza e dolcezza. Mi ha detto anche a nome del fratello di considerare mia la loro casa e quando è ripartito mi sono ritirata nella mia cappella e mi sono coricata con un godimento indicibile. La mattina dopo mi sentivo completamente ristabilita. Ho fatto il bagno, restando immersa nella tinozza per mezz'ora, poi mi sono infilata di nuovo fra le lenzuola di batista e ho consumato un ottimo pranzo. Quando mi sono alzata, ho fatto una toeletta accurata perché sapevo che avrei ricevuto numerose visite. Verso mezzogiorno, il dottor Castellac è venuto a dirmi che c'erano 4 cavalieri venuti da Arequipa che chiedevano di me. Uscendo dalla cappella, situata in fondo alla galleria che circonda la casa, ho visto venire verso di me un uomo di 18 o 19 anni che mi somigliava talmente da sembrare mio fratello. Era mio cugino Emmanuel de Rivero. Parlava francese come se fosse nato in Francia. Infatti vi era stato mandato all'età di 7 anni ed era tornato solo da un anno. Abbiamo provato subito una grande simpatia reciproca. Cugina, com'è possibile che fossi all'oscuro della vostra esistenza? Sono rimasto a Parigi 4 anni, solo, senza un amico, e voi eravate là. Dio non ha permesso che ci incontrassimo. Poi mi ha dato una lettera di mia cugina, Donna Carmen Pierola de Flores, che rappresentava lo zio Pio e che mi invitava a stare da lei. Mi mandava anche un bel cavallo con una magnifica sella inglese, 2 costumi da amazzone, un paio di scarpe, un paio di guanti e una quantità di altri oggetti. Mio cugino mi ha detto inoltre che la notizia del mio arrivo teneva occupati gli abitanti della città, che pensavano che fossi venuta a reclamare l'eredità di mio padre. I nostri ospiti hanno insistito perché consumassi un ultimo pasto con loro e anche se mia cugina ci attendeva, siamo rimasti. Ho lasciato la fattoria verso le 6 di sera con indosso un grazioso costume da amazzone in tessuto verde e un cappello da uomo con un velo nero. In groppa un bel cavallo vivace e focoso. Marciavo in testa al gruppo e il dottore chiudeva la piccola comitiva. La strada fra Congata e Arequipa è buona se paragonata ad altre del paese, tuttavia presenta alcuni ostacoli. C'è un fiume da attraversare a guado. Quando siamo passati noi c'era poca acqua, ma i cavalli scivolavano sulle pietre del fondo e una loro caduta avrebbe potuto avere conseguenze funeste. Facevo fatica a controllare il mio impaziente destriero, ma Emmanuel mi faceva da scudiero e grazie a lui sono arrivata sana e salva. Ho visto dei campi ben coltivati e delle frazioni che mi sembravano povere e quasi abbandonate. Quando siamo giunti sulle alture di Tiavalla, ci siamo fermati per ammirare l'incantevole panorama della valle e della città di Arequipa. L'effetto era talmente magico che mi sembrava di veder realizzato uno dei paesaggi fantastici descritti nelle Mille e una Notte. Abbiamo visto venire verso di noi un gruppo di cavalieri guidati da Don Baltasar, il mio salvatore, e da suo cugino. Le altre persone erano amici di mia cugina e francesi residenti ad Arequipa. 5 leghe separano Congata da Arequipa. E faceva notte quando siamo entrate in città. Ero contenta che il buio mi sottraesse agli sguardi degli abitanti, anche se il rumore degli zoccoli attirava i curiosi sulla porta. In via Santo Domingo ho visto una casa con la facciata illuminata. Era la casa dello zio. Sulla porta c'era una folla di schiavi che quando ci siamo avvicinati sono tornati dentro frettolosi di annunciarci. Mi sembrava di essere in una di quelle scene che si vedono a teatro, quando un personaggio viene accolto con tutti gli onori dell'ufficialità. Il cortile era rischiarato da torce di resina fissate ai muri. Davanti al grande salone di rappresentanza, che teneva tutto un lato del cortile, c'era un portico al quale si accedeva salendo una scalinata di 4 o 5 gradini. Il salone, rischiarato da un bel lampadario e da una moltitudine di candele di diversi colori, risplendeva di luce. Mia cugina, elegantissima in mio onore, mi ha ricevuta in cima alla scalinata, con il cerimoniale prescritto dall'etichetta e dalle convenienze sociali. Ero commossa e scesa da cavallo, le ho preso la mano e l'ho ringraziata di tutto cuore per quello che aveva già fatto per me. Lei mi ha guidata verso il sofà e si è seduta al mio fianco. Immediatamente è venuta verso di me una delegazione di 5 o 6 monaci dell'Ordine di Santo Domingo. Il gran priore mi ha fatto un lungo discorso e ha parlato delle virtù della nonna. Mentre si dilungava nel suo sermone, io esaminavo i personaggi che riempivano la sala. Era una folla eterogenea e mi sembrava che ci fossero più uomini che donne appartenenti alle classi alte. Dopo che ognuno mi aveva fatto i complimenti in termini pomposi, mia cugina ha detto che appena lo avessi voluto potevamo metterci a tavola. Mi sentivo stanca e non desideravo continuare a essere oggetto dell'attenzione di tutti quei curiosi, perciò ho pregato mia cugina di dispensarmi dal partecipare alla cena. Ne sono stati tutti contrariati, mi hanno accompagnata in una parte della casa composta da 2 grandi stanze, ammobiliate in modo molto modesto, e sono venuti anche i monaci che si sono offerti, ridendo, di aiutarmi a spogliarmi. Ho chiesto a Emanuele di dire a mia cugina che desideravo essere lasciata sola e verso mezzanotte si sono ritirati tutti. Finalmente non avevo nessuno intorno, salvo una piccola nera che mi avevano dato per servirmi. Arequipa. Mi trovavo dunque nella casa dove era nato mio padre, dove i miei sogni d'infanzia mi avevano spesso trasportata. Il presentimento che un giorno l'avrei vista si era radicato nel mio animo e non l'aveva più abbandonato, un presentimento legato alla venerazione che avevo per lui e che ne ha conservata viva l'immagine nel mio pensiero. Quando la piccola nera si è addormentata, ho ceduto all'impulso che mi spingeva a esaminare le 2 stanze in cui ero alloggiata. Era stato anche mio padre. L'idea conferiva un grande fascino al locale, il cui aspetto buio e freddo gelava il cuore. Il mobilio della prima stanza era formato da un grande cassettone di legno di quercia che doveva essere giunto in Perù con la spedizione di Pizarro e che per la sua forma risaliva al regno di Ferdinando e Isabella. Da un tavolo, da alcune sedie nello stile introdotto in Spagna da Filippo IV, duca d'Angiò, e da un grande tappeto inglese che copriva quasi tutto il pavimento. I muri erano imbiancati a calce e tappezzati di carte geografiche. La sala, di almeno 25 piedi di lunghezza e 20 di larghezza, era illuminata in alto da un'unica finestra con 4 vetri. La seconda stanza era separata da un tramezzo che non arrivava fino al soffitto. Era più piccola e prendeva luce dalla prima. Il suo mobilio consisteva in un piccolo letto in ferro ornato di tende di mussola bianca, un tavolo di quercia, 4 vecchie sedie e un antico tappeto gobelin. Per la forma, l'atmosfera e l'oscurità, la stanza assomigliava a un sotterraneo. La vista dell'alloggio che la mia famiglia mi aveva assegnato aveva fatto scendere una profonda tristezza nel mio animo e nella mia mente si era affacciata l'idea della temuta avarizia dello zio. Si può giudicare il padrone di casa dal modo di agire di coloro che lo rappresentano, e se Donia Carmen mi aveva riservato quella spelonca perché era sicura che se lui fosse stato presente avrebbe fatto lo stesso. Per non lasciarmi dubbio al riguardo, mentre mi accompagnava, mi ha detto che quell'appartamento, benché poco adatto, era l'unico disponibile per ricevere i parenti e gli amici. Quel tratto dipingeva lo zio, capo di una numerosa famiglia, in relazione, grazie ai suoi alti incarichi e ai suoi meriti personali, con la parte più distinta del paese. Don Pio disponeva di una fortuna colossale, ma non poteva offrire ai suoi parenti e amici che una fredda cantina nella quale c'era bisogno di accendere la luce anche a mezzogiorno per poter leggere. Queste riflessioni mi hanno agitata a tal punto che mi sono addormentata solo quando era quasi giorno. Il giorno seguente mia cugina mi ha detto che secondo le usanze le persone importanti della città sarebbero venute a farmi visita e che sarebbe stato opportuno che mi fossi fatta trovare nel salone di buon'ora. Ero sofferente e rattristata e per nulla disposta a ricevere tutta quella gente, ma a dir la verità il mio rifiuto era dovuto anche a una civetteria. Durante la traversata del deserto, l'ardore del sole, la polvere, l'asprezza del vento che soffiava dal mare mi avevano bruciato il viso e le mani. La pomata che la gentile signora Nahara mi aveva dato riduceva il rossore, faceva tornare la mia pelle al suo stato naturale, ma io desideravo attendere altri 4 o 5 giorni prima di presentarmi. I primi 2 giorni era stata accettata la scusa dell'indisposizione, ma il terzo giorno la giustificazione aveva dato origine a delle voci. Il signor Durand, che conosceva bene lo spirito degli Arechi Pegni, mi ha consigliata di farmi vedere se non volevo correre il rischio di alienarmi la benevolenza degli abitanti. I popoli primitivi sono così, la loro ospitalità ha qualcosa di tirannico. A Islay avevo dovuto restare al ballo fino a mezzanotte, anche se ero sfinita. Ad Arequipa, malgrado le sofferenze del viaggio e il dolore che sentivo per la morte della nonna, venuta a mancare mentre ero a Valparaiso, dovevo ricevere tutta la città il terzo giorno dopo il mio arrivo. Mi hanno confezionato in fretta e furia un abito nero e mi sono presentata nel vasto salone vestita a lutto come tutta la famiglia. La tristezza del mio animo superava quella dei vestiti. In Perù c'è l'usanza che le donne di alta classe, quando arrivano in una città dove sono straniere, restino in casa un mese a ricevere le visite. Trascorso questo tempo, esse escono per restituirle. Mia cugina Carmen rispetta rigorosamente l'etichetta e pensando che anch'io vi attribuissi la stessa importanza, mi ha istruita con cura affinché mi conformassi. Ma in questa circostanza il giogo del costume mi pareva troppo pesante e ho deciso di affrancarmi. E poiché neanche mia cugina amava ricevere visite, ha applaudito alla rapidità con cui me ne sono liberata. Lei non ne sarebbe stata capace. L'indomani del mio arrivo ad Arequipa ho scritto allo zio che mi trovavo a casa sua, che la mia salute non mi permetteva di andarlo a trovare a Camana e che aspettavo il suo ritorno con la più viva impazienza. Passati 15 giorni senza avere risposta, cominciavo ad essere preoccupata e lo era anche mia cugina, che temeva che quel silenzio significasse disapprovazione della sua condotta nei miei riguardi. Il modo d'agire dello zio rinnovava l'agitazione che il mio arrivo aveva prodotto fra i suoi amici e nemici. Gli uni dicevano che aveva paura di me, gli altri pensavano che preparasse qualcuno dei suoi tiri per incastrarmi. Gli allarmisti arrivavano a dire che avrebbe persino potuto farmi arrestare. La prima risposta dello zio ha ottenuto il risultato che probabilmente si attendeva. Nella lettera mi testimoniava benevolenza e ricordava con grande riconoscenza i servizi resigli da mio padre. Io ho creduto che il suo cuore fosse aperto al mio affetto e che avrei potuto contare sulla sua giustizia, ma bisognava essere ignorante del mondo come lo ero io per lasciarmi catturare dalle sue belle parole. Ero talmente occupata a fare e ricevere visite, a scrivere, a vedere tutte le cose interessanti del paese che il mio tempo passava rapidamente. Arrivata ad Arequipa il 13 settembre, il 18 dello stesso mese ho sentito per la prima volta in vita mia un terremoto. Era quello passato alla storia per i suoi disastri, che ha raso al suolo Tacna e Arica. La prima scossa ha avuto luogo verso le 6 del mattino ed è durata 2 minuti. Sono stata svegliata di soprassalto e quasi gettata giù dal letto. Credevo di essere ancora sulla nave, sballottata dalle onde, e non avevo per nulla paura, ma la mia serva nera si è alzata di colpo gridando: «Signora, temblor, temblor!» Poi ha aperto la porta, è uscita in cortile e io mi sono lanciata di corsa dietro di lei con la vestaglia sulle spalle. I movimenti erano così violenti che eravamo obbligate a gettarci a terra per non cadere. Anche la persona più coraggiosa sarebbe stata assalita dallo spavento a sentire il suolo agitarsi così e a vedere le case oscillare. Tutti gli schiavi erano nel cortile, in ginocchio, a pregare, impietriti dal terrore e rassegnati a morire. Sono tornata a letto e mia cugina mi ha seguita poco dopo. La paura aveva alterato i suoi lineamenti. Ah, Florita, che terribile terremoto! Sono sicura che una parte della città è distrutta. Un giorno mi succederà di restare sepolta sotto le rovine della mia vecchia Stamberg. Voi che non siete abituata a simili convulsioni, che effetto avete provato? Cara cugina, ho creduto di essere ancora sulla nave. È così che si sentono i movimenti delle onde. Ho avuto paura solo quando in cortile ho visto le case inclinarsi verso di me, il selciato che si muoveva e il cielo che vacillava come quando si è in mare. Allora ho capito lo spavento da cui è colto l'uomo in presenza di un cataclisma che gli fa sentire fino in fondo la sua impotenza. Sono frequenti questi terremoti? Certe volte ce ne sono 3 o 4 in un giorno ed è raro che passi una settimana senza che ne abbiamo uno più o meno forte, è a causa della vicinanza con il vulcano. Seduta sul mio letto a fumare sigaritos, donna Carmen è rimasta a parlare con me delle innumerevoli disgrazie che i terremoti hanno causato al paese. Verso le 7 abbiamo udito un rumore sordo che sembrava venire dalle viscere della terra. Era di nuovo la voce del sisma. Mia cugina ha gettato un grido di spavento e si è precipitata fuori dalla stanza. In quel momento io avevo gli occhi fissi su una crepa abbastanza sottile che si era formata al centro della volta. Di colpo l'ho vista aprirsi e dalla volta si sono staccate delle enormi pietre. Ah, ho creduto che mi sarebbero crollate in testa e sono fuggita spaventata. Questa scossa è stata meno forte della prima e quando è cessata siamo rientrati ed io mi sono rimessa a letto tutta intirizzita. Mia cugina si è di nuovo accomodata vicino a me e l'espressione del suo viso faceva paura. Che paese orribile! Ha gridato con voce furente e dire che sono condannata a viverci. Cugina, se per voi è così orribile, perché ci rimanete? Per la più dura delle leggi, Florita, quella della necessità. Chi non possiede una fortuna dipende dagli altri, è schiavo e deve vivere dove il padrone lo lega. Dicendo questo, ha digrignato i denti con un gesto di rivolta. Questo provava che non era fatta per essere schiava. Mentre la guardavo con un sentimento di superiorità che non riuscivo a reprimere, le ho detto: Cugina, io possiedo ancora meno ricchezze di voi, eppure ho voluto venire a dare chipa ed eccomi qui. Che cosa volete darmi ad intendere? Mi ha domandato con un'espressione di gelosia. Che non esiste libertà senza volontà. Chi ha ricevuto da Dio una volontà forte che gli permette o le permette di superare gli ostacoli è libera o libero. Chi ha una volontà debole si scoraggia, cede davanti alle avversità, è schiavo e lo sarebbe anche se la fortuna bizzarra lo mettesse su un trono. Mia cugina non ha saputo cosa rispondere. Sentiva istintivamente che avevo ragione, anche se non riusciva a spiegarsi che cosa mi desse la forza di usare un simile linguaggio. Mi ha guardata a lungo in silenzio, disegnando nell'aria con il fumo del sigaro festoni e figure fantastiche che io seguivo meccanicamente con l'occhio. Mia cara Florita, voi sostenete che basta avere una volontà ferma per essere liberi, proprio voi, donna vile, schiava delle leggi, dei pregiudizi, soggetta a mille infermità e di una debolezza fisica che vi rende incapace di lottare contro il minimo ostacolo? Voi avete il coraggio di enunciare un simile paradosso? Ah, Florita, come si vede che non siete stata sottomessa al giogo umiliante di un marito duro e tirannico, obbligata a piegarvi alla sua volontà capricciosa, a sopportare la sua ingiustizia, il suo disprezzo, le sue offese, che non siete stata dominata da una famiglia altezzosa né esposta alla spietata cattiveria degli uomini. Signorina senza famiglia, siete stata libera in tutte le vostre azioni e padrona assoluta di voi stessa. Eravate senza obblighi verso il mondo e la sua calunnia non poteva toccarvi. Florita, vi sono ben poche donne nella vostra felice posizione. Quasi tutte, dopo essere andate spose molto giovani, hanno avuto le loro facoltà sciupate, alterate dall'oppressione più o meno forte che i loro padroni e mariti hanno fatto pesare su di loro. Non sapete quanto le sofferenze, nascoste agli occhi del mondo e dissimulate persino con se stesse, indeboliscano la propria interiorità e paralizzino il morale anche dell'essere più dotato. Questi sono gli effetti che le sofferenze producono su noi donne appartenenti a una civiltà poco progredita. Per le donne europee le cose vanno diversamente. C'è sofferenza dove c'è oppressione e oppressione dove c'è il potere di esercitarla. In Europa come qui, le donne sono asservite agli uomini e soffrono ancora di più per la loro tirannia, ma in Europa più di qui si incontra un maggior numero di donne alle quali il divino ha elargito forze morali sufficienti per sottrarsi al giogo. Dicendo queste parole ero trasportata dal sentimento che le ispirava e mia cugina è rimasta sorpresa dalla vivacità della mia voce e dall'espressione dei miei occhi. Florita, vi ammiro, siete splendida. Non ho mai visto una creatura che esprimesse i propri sentimenti con altrettanto calore. Siete un angelo ad accalorarvi per le sorti delle donne. Infatti, esse sono ben sfortunate. Tuttavia, cara amica, il vostro giudizio è incompleto. Per avere un'idea giusta dell'abisso di dolore in cui è costretta a vivere la donna, bisogna essere sposati o esserlo stati. Florita, il matrimonio è il solo inferno che io riconosca. Il terremoto aveva completamente distrutto la città costiera di Tacna. Sono cadute tutte le case ed è crollata anche la chiesa, appena costruita e aperta al pubblico da 15 giorni. Sono morte 18 persone e 25 sono state gravemente ferite. La città di Arica ha sofferto quasi altrettanto. La regione di Sama e i dipartimenti di Mokega e di Torata sono stati sconvolti. A Locumba la terra si è aperta e ha inghiottito edifici interi. In tutti questi luoghi sono morte o sono rimaste ferite molte persone. Arequipa ha avuto pochi danni, perché le case di questa città sono molto solide e per abbatterle ci vorrebbe un terremoto che radesse al suolo tutto il Perù. Questa scossa si è fatta sentire in forma attutita a Lima e a Valparaiso e non ha causato disastri. Bisogna aver abitato nei paesi in cui i terremoti sono frequenti per farsi un'idea del terrore provocato e dei danni subiti quando la terra è scossa da convulsioni orribili che la fanno sussultare in tutte le direzioni e la screpolano in tante voragini.